www.redigio.it e la storia continua. Ma che sfacciate! Quelle donne in pantaloni! Anche la moda ha le sue date storiche. Una è del 13 marzo del 1911. Ma che cosa succede in quel giorno? A Milano, in piazza San Barbara, compaiono per la prima volta in Italia le Jugendkulotte, cioè le donne in pantaloni. Sottane che alla testa del ginocchio si chiudono in larghe brache tenute le caviglie da nastri e fronzoli. A portarle nella piazza milanese sono due mannequin, vale a dire due indossatrici. Succede il finimondo. Vi furono grida, fischi, lazzi tali che le poverette dovettero cercare rifugi nei portoni. L'esordio mondiale della Jugendkulotte è avvenuto un mese prima, naturalmente a Parigi, e l'accoglienza non è stata diversa che a Milano. Un settimanale ha scritto: la società parigina è davvero la più curiosa che ci sia, sa prestare lieve attenzione alle cose gravi e guardare con gravità le cose lievi. È frivola, ma seriamente. Tra le sartorie si è scatenata la guerra. Alcune sostengono l'entrave, cioè una gonna talmente stretta in fondo da costringere le donne a procedere quasi a balzelloni. Rimproverano agli atelier avversari. Ma come? Le donne turche stanno gettando alle ortiche i loro tradizionali pantaloni, simbolo di schiavitù, e le parigine raccattano le braghe dalla pattumiera orientale? E rispondono i sostenitori delle novità. Le donne sono stanche di saltellare, esigono il diritto di camminare. Da Parigi a Milano, da Londra a New York, i mannequin tentano di propagandare la nuova moda e le reazioni sono spropositate. Al Parlamento degli Stati Uniti il senatore Max Linehan dice: signori, la patria è in pericolo. La tendenza della donna a mascolinizzarsi, imperdonabilmente tollerata, sino ad oggi porterà a conseguenze gravissime che minacciano di turbare l'equilibrio dello Stato. La donna in pantaloni è come la trasformazione della natura. Tra qualche anno si troverà giustissimo che l'uomo veste la gonna e faccia crescere i capelli e partorire la prole. Conseguenza logica. Il senatore propone di punire le donne in gonna, pantalone, con gravi multe e persino la condanna da 30 a 60 giorni di carcere. Ma gli risponde il senatore Klamener, un miliardario di 72 anni, già vedovo 4 volte e in procinto di risposarsi. Illustri colleghi, non vale tanto scammanarsi. L'esperienza della mia lunga vita mi porta a questa conclusione inevitabile. Qualunque abito tenterete di imporre alle donne, non riuscirete mai a spogliarle di due vesti formidabili date loro dalla natura. Qualunque abito tenterete di imporre alle donne, non riuscirete mai a spogliarle di due vesti formidabili date loro dalla natura per nostra dannazione eterna: il manto dell'angelo e la giubba del diavolo. Due abiti che rendono trascurabile il modo con cui esse provvedono a ricoprirsi le parti basse. E la legge Linehan non passa. Passa invece un'ordinanza provvisoria che commina $152 di multa ai mariti incapaci di impedire alle mogli di indossare la Jugendkulotte e prevede fino a 5 giorni di carcere e $923 di multa agli impresari teatrali, ai proprietari di fabbriche e ai direttori di pubbliche amministrazioni che non sappiano fare altrettanto con le loro dipendenti, siano esse attrici, operaie, contabili, commesse, dattilografe. Le stesse donne sono divise. Il giornale femminista Voté for Women afferma: la nostra forza è la gonnella. Il giorno che decidessimo di abbandonarla per i calzoni, non riusciremmo che ad essere ridicole e perderemo tutta la stima di cui abbiamo il diritto. E invece la professoressa Bradford ribatte: hanno paura di vederci in pantaloni. Sappiatelo, anche l'uomo più onesto è suo malgrado un ignobile sfruttatore di gonna. Molte anche le vignette. Sullo spagnolo Blanco e in Negro si vede un marito che osserva la scena della polizia che difende una superculotte malmenata dalla folla e dice: quante ingiustizie, mia moglie si è infilata i calzoni sin dal giorno in cui ci siamo sposati e nessuno, ahimè, ha mai pensato di linciarla. Su un altro giornale appaiono due signori che si chiedono: ma come dobbiamo mascherarci per il veglione dell'opera? E se ci vestissimo da donne? Certo, non sono problemi che tutte le donne possono affrontare. Quelle che affollano le fabbriche, abitano le case con le ringhiere, lavorano nei campi, quasi non si accorgono delle entrave e della superculotte. Un tailleur, se firmato, costa 300 lire e una lira del 1911 è pari a 863 lire del 1976-77. La moda si fa a Parigi. Dettano legge la Maison Callot, diretta dalle sorelle Gerber, e la Maison Jacques Duché, dove lavora Madeleine Vionnet, destinata poi a apparire una sua casa. Detta legge soprattutto Paul Poiret, ha 32 anni, è figlio di un mercante di stoffe. Dal 1903 ha una boutique in Rue Aubert al 5. È un dittatore. Voglio essere obbedito anche quando ho torto, dice. Crea e distrugge. A lui si deve la liberazione della donna dal busto strettissimo che per anni ha dato alla sua figura la forma di una clessidra. Poiret è geniale, fantasioso. Usa sete, velluti, damaschi, accosta viola e rosso, blu e rosa pallido. Si ispira all'Oriente ed è il primo ad aprire una scuola per figuriniste, il primo a organizzare corsi di andatura e creare il prêt-à-porter e a far rispondere ai suoi modelli da un grande e a far riprendere i suoi modelli da un grande fotografo e a fabbricare gli accessori dai profumi alle borse. Per lanciare le sue jupe-culottes si dà una gran festa che intitola Le mille e due notti. La moglie del sarto appare in una gabbia dorata in compagnia di graziosi uccelli, gli ibis rosa. Nonostante la pubblicità, la superculotte dura una breve primavera e già in estate l'attenzione è per un'altra novità, la raccorciata, ossia una gonna che termina a 5 o 6 centimetri da terra. C'è chi scrive: dopo la vita e il petto, anche le gambe delle donne stanno rompendo le catene.